Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ci ritrovati insieme da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, buon venerdì, stiamo concludendo una nuova settimana insieme. Come la concludiamo? Con un tema che non abbiamo dubbio di credere che stamattina troverà il riscontro tra moltissimi ascoltatori, perché parliamo di prodotti di risparmio che sono largamente diffusi fra le famiglie italiane. Allora, l'ufficio postale sembra avere ancora un appeal particolare per gli italiani, non solo perché molti pensionati vi accreditano appunto la pensione, o perché chiaramente è l'unico luogo dal quale, o pressoché l'unico dal quale possiamo ricevere o inviare raccomandate e pacchi, ma sicuramente grazie anche alla diffusione capillare degli sportelli, che porta ognuno di noi da sempre ad averne uno di fiducia vicino casa in cui ci rechiamo per le motivazioni appunto più disparate. Con il passare degli anni, come sapete bene, ne abbiamo parlato tantissime volte a Salva Danaio, i servizi offerti dalle Poste Italiane si sono arricchiti e sofisticati, l'offerta è cresciuta con un ruolo che è andato pian piano sempre di più avvicinandosi a quello della banca vera e propria. Sono infatti molti risparmiatori che fanno riferimento a BancoPosta per un semplice conto corrente, per usufruire di carte prepagate o postamat, i celebri libretti postali o anche le polizze di Posta Vita, molti strumenti che arrivano alla gestione del risparmio vera e propria con gli altrettanto appunto noti e diffusi buoni fruttiferi. Domani di tutto questo si occupa la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore. Come spesso facciamo, abbiamo rubato il tema per anticiparvelo ma anche per approfondirlo dai nostri microfoni. Oggi vorremmo scoprire in che modo e quanto è diffusa la scelta dei prodotti postali fra le famiglie italiane, i numeri del resto parlano chiaro, quali ne sono gli aspetti più interessanti e quelli che invece ancora creano al risparmiatore qualche dubbio, con un'attenzione appunto particolare proprio alla gestione del risparmio. Ricordiamo peraltro che Poste Vita è incappata anche in Lehman Brothers negli ultimi anni, a dimostrazione della sofisticazione assunta dai prodotti di risparmio distribuiti dalle Poste. E allora tutti questi temi, che sono tanti e che vedo già stanno riscontrando il vostro interesse, perché c'è già chi si è prenotato all'8 00240024, continuate a farlo, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Stamattina con noi Maurizio Di Luzio, responsabile Wealth Management Banco Posta, prodotti di risparmio e investimento appunto delle Poste Italiane. Dottor Di Luzio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuto, per intervenire appunto questa mattina a Salva Danaio, così come ringrazio per invece un ritorno quello di Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. Buongiorno. Ci sente? Buongiorno. Eccolo qua, Picciolini questa mattina è in viaggio, ma naturalmente non è voluto mancare alla nostra trasmissione. Allora, vi ho ricordato tutti i parametri, tutti gli estremi per intervenire in diretta questa mattina, per rivolgerci appunto le vostre domande sulle tematiche che abbiamo scelto. Andiamo a vedere prima di partire però la borsa come si sta comportando, perché quando ci dimentichiamo di farla qualche ascoltatore si lamenta e allora noi accontentiamo tutti quanti. Abbiamo un quadro positivo tra i principali indici del vecchio continente: Parigi più 0,30, Francoforte più 0,36%, su Francoforte è arrivato l'IFO tedesco stamattina, che però non è stato particolarmente brillante, un po' al di sotto delle attese, questo indicatore di fiducia, ma il mercato appunto riesce abbastanza a trascurare questa rilevazione statistica. Londra più 0,29%, stamattina la piazza un po' più in difficoltà, è Milano che perde lo 0,08%. Il mercato oggi riesce a nuovamente trascurare la crisi portoghese, la crisi politica, ma anche, come sapete, soprattutto di natura finanziaria. Stamattina peraltro anche Standard & Poor's ha tagliato il rating sovrano del Portogallo di ben 2 gradini, da A- a BBB, a 2 gradini praticamente da livello junk, livello che viene considerato, che considera il debito sovrano di un paese letteralmente spazzatura. Il mercato oggi preferisce guardare all'accordo raggiunto sul meccanismo permanente di stabilità che è stato appunto raggiunto ieri dai capi di Stato e di Governo dell'Eurozona. Il quadro di Piazza Affari vede acquisti sul Banco Popolare più 2,56%, dopo il forte calo di ieri oggi questo titolo recupera, lunedì forse potrebbe essere, si potrebbe cominciare a discutere di un possibile aumento di capitale per la banca italiana. Fiat, il Banco Popolare che stamattina rimbalza del 2,48%, Fiat più 1,46%, Parmalat più 1,27%, Impregilo più 1,21%. Per quello che riguarda invece i titoli in negativo, abbiamo un ribasso di un punto su Ansaldo e Toz, Atlantia meno 0,5%, 0,08, STM-07 come Enel e come Prysmian. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Oggi ci focalizziamo sul risparmio postale. Dalla vecchia raccomandata al conto corrente ai servizi di telefonia. Poste Italiane è, per un motivo o per l'altro, un interlocutore familiare a tutti i cittadini dello Stivale, grazie soprattutto alla diffusione capillare dei servizi, con 14.000 uffici aperti al pubblico facilmente individuabili nel quartiere della grande città, così come nel più sperduto paesino di campagna. Una realtà che si è evoluta negli anni, rinnovando l'offerta e la gamma dei prodotti. Col tempo, in particolare, sono andate raffinandosi le opportunità per i risparmiatori, portando lo sportello dell'ufficio postale e quello della filiale di banca ad assomigliarsi sempre di più. Per quanto si tenda, infatti, ad abbinare ancora i servizi postali ad un profilo di risparmiatore poco pretenzioso e sofisticato, al tempo stesso si osserva una proposta di strumenti sempre più elaborati, adatti anche ad esigenze meno essenziali che in passato. I servizi, insomma, sono sempre più legati al risparmio e in alcune occasioni, naturalmente, non ne hanno potuto evitare i rischi e i danni collaterali, come nel caso dell'esposizione di Poste Vita al crack Lehman Brothers. Le Poste però sembrano ancora poter godere di una particolare fiducia, di un effetto rassicurante, almeno in una fetta della popolazione, che continua a scegliere libretti, buoni fruttiferi, Postamat e PostePay, preferendoli a servizi analoghi offerti dalle banche o dal tesoro. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Io vorrei specificare abbastanza chiaramente il tema di questa mattina. Non parliamo dell'attività, come dire, delle poste a 360 gradi. Vorremmo focalizzarci proprio sui più diffusi strumenti di risparmio tra le famiglie italiane. Quindi libretti postali, buoni fruttiferi. Se non avete ben capito anche il funzionamento di questi prodotti, questa mattina vorremmo rispondere fondamentalmente a queste domande con Maurizio Di Luso, appunto, di Poste Italiane, e con Fabio Picciolini di Adiconsum. Allora, col dottor Di Luzio comincio subito, perché volevo un po' capire così qual è la sensazione che si ha. Chiaramente, immagino, di soddisfazione, perché a dispetto della crisi in molte famiglie ancora vi ricercano. C'è stata soprattutto questa ricerca di sicurezza negli ultimi anni che ha indotto molte famiglie a trasferire parte del risparmio, magari immobilizzato in strumenti azionari ed obbligazionari, su strumenti di liquidità. Forse questo è il motivo per il quale sono cresciuti anche tantissimo negli ultimi anni i vostri libretti di risparmio. Ho un dato riferito al 2010, 97,6 miliardi di stock. Quindi le famiglie scelgono come dire, strumenti molto semplici che possano accantonare risparmio anche a costo di avere rendimenti molto bassi, dottor Di Luzio. Io lo confermo, dottoressa. Intanto voglio precisare che in Poste Italiane i prodotti di risparmio postale non vengono acquistati soltanto quando magari c'è immediatamente prima una crisi finanziaria, cosa che evidentemente è successo, ma non è stato sicuramente quella l'unica chiave di lettura per cui i risparmiatori ci hanno sempre scelto e ci continuano a preferire. Le do dei dati: il risparmio postale per Poste Italiane è e continua a essere il core business dell'attività della nostra azienda. Al 31/12/2010 noi abbiamo uno stock formidabile in buoni e libretto che rappresenta molto vicino ai 300 miliardi di euro, per la precisione 296 miliardi di euro, di cui, come diceva lei, circa 98 miliardi in libretti e circa 198 miliardi di buoni. Tornando al discorso della sicurezza, che è sicuramente uno degli elementi di appealing dei prodotti di risparmio postale, le dico subito che negli ultimi 10 anni comunque la raccolta del risparmio postale è sempre stata una raccolta netta positiva. L'anno scorso, per esempio, il saldo positivo è stato di circa 2 miliardi e 700 milioni. Ma dando anche un'occhiata ai momenti, diciamo così, di crisi finanziaria, se guardiamo per esempio al 2009, quindi l'anno immediatamente a ridosso della crisi finanziaria delle banche americane per le vicende ben note delle mutui subprime, la raccolta netta in termini di buoni libretti per Poste Italiane è schizzata a 5 miliardi e 4. Non andando molto indietro, diciamo che la questione è che durante la crisi voi sicuramente non avete perso nessun tipo di cliente, al limite avete incrementato. Diciamo che noi non perdiamo mai i clienti, in quelle circostanze non li guadagniamo. Sì. Nel 2004 è successo la stessa cosa, se lei si ricorda, nel 2003 c'è stato il fallimento di Parmalat, di Sirio, obbligazioni Giacomelli, l'Argentina, ebbene nel 2004 addirittura la raccolta netta positiva è stata ancora più formidabile rispetto a quella del 2009, che ha toccato i 6,3 miliardi. Certo, volevo fare una considerazione, se lo abbiamo recuperato, con Fabio Picciolini, con il quale appunto avevamo un piccolo inghippo telefonico un istante fa. Si è sempre un po' dipinto, dottor Picciolini, a Diconso, me lo ripresento, il risparmiatore che fruisce dei servizi di risparmio delle Poste, come una figura certamente prudente, adesso col dottor Di Luzio confermavamo, no, questo concetto, ma anche una figura un po' poco sofisticata, esigenze di risparmio molto modeste, e quindi chiaramente a questa platea viene destinata, ed è sempre stata destinata, una serie di prodotti semplici ed essenziali. Qual è la percezione dell'Associazione dei Consumatori, l'identikit del consumatore e del risparmiatore che si rivolge alle Poste? Niente da fare, questa mattina non ce la possiamo fare proprio a fare questo collegamento, ci dispiace, perché fino a 3 secondi fa era ottimo, ritentiamo di nuovo. Dottor Di Luzio, la faccio a lei, sentiamo un po' le Poste. Ma guardi, cosa dicono, io sì. Volevo sfatare un luogo comune, che magari quello che per tanti anni ha caratterizzato la percezione di Poste, cioè che in Poste venissero soltanto risparmiatori di mezza o alta età, e che per questo noi distribuiamo prodotti assolutamente non particolarmente sofisticati. Non è così, o perlomeno non è più così. Diciamo che dal 99, quando Poste Italiane è scesa in campo diventando società per azioni e quindi ha dovuto necessariamente ampliare la propria offerta, fino a quel momento noi collochevamo soltanto risparmio postale e titoli di Stato, evidentemente non si può approcciare un cliente soltanto con un'offerta monotematica. Pensi lei, una banca potrebbe stare sul mercato collocando solo titoli di Stato? Direi di no. Quindi anche noi abbiamo integrato la nostra offerta mettendo prodotti sempre particolarmente semplici e in alcune circostanze caratterizzati da un grado di sofisticazione leggermente superiore, perché ha aumentato, come posso dire, la qualità della nostra clientela. Come per esempio è accaduto con il buono fruttifero, il BFT Premia, che è indicizzato anche alla borsa. Poi magari, dottor Di Luzio, la devo fermare perché ho già la mia prima pausa, lo spiegheremo anche ai nostri ascoltatori come funziona. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Cominceremo tra un po' a sentire anche i nostri ascoltatori, e devo dire già che c'è anche qualche promotore finanziario che vorrebbe appunto commentare un po' il tema che stiamo affrontando questa mattina, chiaramente focalizzando l'attenzione sulle professionalità che svolgono consulenza allo sportello postale, perché chiaramente c'è ancora un po' questa immagine, e vedremo se si è modificata negli anni, del consulente del risparmio, che era praticamente l'impiegato che prima faceva le raccomandate, adesso si è trasferito di sportello e di sedia ed è andato a fare appunto il consulente nella vendita di buoni fruttiferi postali, appunto libretti di risparmio. Vedremo se è così anche col dottor Di Luzio, e allora noi ci risentiamo tra pochissimo. Allora, oggi a Salva Danaio, come ci capita di fare molto frequentemente il venerdì, anticipiamo la storia di copertina di Plus 24 di domani. Ne dico la domani la storia di copertina sarà incentrata sul tema del risparmio postale, perché sempre più famiglie sottoscrivono libretti postali, buoni fruttiferi, e quindi in sostanza la gestione appunto del risparmio da parte delle Poste trova un riscontro sempre più alto e più ampio da parte dei risparmiatori italiani. Nonostante la crisi, i tassi di crescita appunto delle sottoscrizioni di questi strumenti di investimento sono stati crescenti, tanto che ci ha raccontato prima il rappresentante delle Poste di questa mattina, Maurizio Di Luzio, lo stock gestito tra buoni fruttiferi e libretti di risparmio appunto dalle Poste ammonta qualcosa come 300 miliardi di euro. Si cerca ovviamente la conservazione del proprio risparmio anche a costo di avere delle remunerazioni molto contenute, ma in sostanza la prudenza è l'atteggiamento fondamentale che anima il risparmiatore che cerca risparmio presso la Posta. Abbiamo recuperato Fabio Picciolini, ce l'abbiamo, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa ma sono in viaggio. Lo so benissimo, però l'abbiamo recuperata. Però a noi quello che pensa l'Associazione dei Consumatori sul risparmio postale appunto ci interessa particolarmente, perché chiaramente dal quadro che abbiamo trattato fino a questo momento e anche dai tassi di crescita che questo settore continua ad avere, sembra che sia un mondo dove tutto funziona perfettamente, dove sono tutti quanti contenti e dove non necessariamente si vada, perché il risparmiatore appunto che cerca queste soluzioni di investimento sia non solo prudente ma anche molto modesto e poco sofisticato. Picciolini. Ma non è detto solamente questo, perché comunque si cerca la certezza in un momento in cui sono così difficili i mercati. Avere la certezza del rimborso del capitale è un aspetto fondamentale per tutti i risparmiatori e non solamente per quelli, come si usa dire, minori, le persone anziane, i pensionati e cose del genere. Quindi è un aspetto importante di risparmio fiscale postale, anche se dobbiamo dire che qualche problema nel passato esiste. Perché prima era possibile modificare i tassi di interesse dei buoni postali anche in riduzione, sì. Mentre oggi non è più possibile, e abbiamo avuto parecchie, veramente molte segnalazioni di persone che si sono viste ridurre i tassi di interesse già non alti, ridotti anche di un terzo o addirittura della metà. Sì, questo dal 2000 non è più possibile. C'è stato un ultimo caso piuttosto grande nell'86, credo, però appunto proprio sulla scia di questo caso, sì. Purtroppo però ancora le conseguenze sono buoni, che arrivano anche a 20 a 30 anni, quindi ancora oggi ci sono casi che ci vengono segnalati. Ecco, quindi questo insomma è una questione ancora aperta. Di Luzio, voleva fare delle precisazioni su questa vicenda, praticamente se ce la vuole anche ricordare un po', magari per tutti coloro che non avessero capito bene di che cosa stiamo parlando. Parliamo della decurtazione dei rendimenti promessi da parte appunto del buono fruttifero, che poteva avvenire anche nel corso della maturazione di questo, no? Adesso da questo dal 2000 non può più succedere, però è successo nel 1986, c'è stato l'ultimo caso con strascichi spiacevoli. Dottoressa, la ringrazio di questa domanda, perché mi mette nella condizione di poter chiarire finalmente, spero una volta per tutti, perché di questa vicenda ne siamo peraltro anche noi vittime. Allora, velocemente le dico che prima che della trasformazione in Cassa Depositi e Prestiti, che è l'emittente dei buoni postali fruttiferi in società per azioni, diciamo, il risparmio postale era disciplinato dal codice postale. Questo codice postale è stato emendato nel 1974 attraverso un decreto legislativo emesso dall'allora Ministero dell'Economia, con il quale questo emendamento prevedeva la possibilità di poter modificare i tassi riconosciuti dai buoni emessi in precedenza, ma la ratio di questo intervento legislativo era addirittura positiva, nel senso che in quegli anni ricorderete tutti che l'inflazione era a due cifre, anche i tassi di interesse erano a due cifre, le emissioni dei buoni non avvenivano con cadenza mensile come oggi, le emissioni duravano anche anni, e allora per evitare che i risparmiatori potessero detenere dei buoni che non rispecchiassero più in termini di tassi di interesse le condizioni di mercato, da qui l'emendamento. Tant'è vero che per tre volte questo emendamento è intervenuto in senso positivo, nel senso che su alcune serie i tassi di interesse sono stati migliorati, in una quarta purtroppo volta l'effetto è stato invece negativo, perché le condizioni di mercato nel frattempo erano peggiorate, e quindi questo decreto del Ministero è andato a ridurre i tassi di interesse di questi buoni, che però evidenzio per tre volte avevano subito un effetto a rialzo. Ecco, il problema ovviamente... però, a parte come è maturata, diciamo, la questione che lei ci ha spiegato molto bene, la questione è stata anche che molte persone si sono accorte della decurtazione solo al momento della riscossione, forse non è funzionato molto bene il meccanismo di comunicazione di tutto questo, dottor Di Luzio, no? Guardi, dottoressa, allora lei sa benissimo che la stragrande maggioranza dei buoni, soprattutto vecchi, sono rappresentati da forme cartacee, nel senso che il privilegio della tattilità della nostra clientela è stato sempre particolarmente importante. E negli anni scorsi noi non avevamo evidenza, nel senso che non avevamo conoscenza di chi fossero i risparmiatori detentori di questi titoli. Quindi che cosa abbiamo fatto? Noi e Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso in cui portava al pubblico queste informazioni. Noi negli uffici postali abbiamo fatto un avviso. Più di questo, c'è il contatto nominale con il cliente, era impossibile. Se avessimo potuto farlo, evidentemente avremmo scritto. Il meccanismo della Gazzetta Ufficiale ci lascia chi fossero stati e dove potevamo raggiungerli. Va bene, però insomma speriamo che questa sia una questione da considerare al più presto chiusa. Detto questo, dottor Di Luzio, siccome appunto quello che le anticipavo, l'altro aspetto che in qualche maniera molti contestano relativamente alla vostra attività di consulenza in tema di risparmio, è proprio quello delle professionalità. Lo sportello, allora sentiamo un po' che cosa ci dice una promotrice finanziaria, credo da Napoli, che forse credo anche di ricordare di aver conosciuto da qualche parte, Maria Antonietta, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, sì, ci siamo incontrate. Sì. siamo incontrati. Allora, io volevo dire, proprio per l'attività che svolgo, per la professione che svolgo, che spessissimo, quindi per esperienza lo dico, io ho incontrato clienti che gestiti da Bancoposta nei loro risparmi e ho constatato il 100% delle volte che su questi clienti non è stata fatta mai una consulenza, ma una pura vendita, ma questo è inevitabile perché gli addetti, gli operatori del settore del Bancoposta non hanno assolutamente la professionalità per poter svolgere un ruolo di consulenza finanziaria e non di vendita del prodotto finanziario. Quindi questo, fin quando questo non ci sarà, cioè fin quando la professionalità degli operatori postali non sarà almeno equiparata a quella dei bancari, non dico dei promotori finanziari o dei consulenti, ma almeno a quella dei bancari, non credo che ci siamo. Purtroppo, dico purtroppo perché lei danneggia anche la mia attività questo, la percezione del cliente, del risparmiatore verso Bancoposta è sempre quella di massima fiducia e affidabilità, certo, rispetto alle banche o anche rispetto ancora di più. D'altronde gli sportelli sono diffusissimi e quindi è chiaro che, come dire, hanno una capacità di attrarre possibili investitori, hanno una potenza di fuoco sul territorio enorme. Maria Antonietta, la ringrazio, sentiamo un po' le poste su questo, che cosa dicono, dottor Di Luzio. Insomma, la percezione è che chi vendeva le raccomandate ieri oggi vende il buono fruttifero. Ma devo deludere l'amica Maria Antonietta, perché in realtà le cose non stanno così, e mi spiego meglio. Allora, ovviamente nel momento stesso in cui ci siamo trasformati in società per azioni e siamo scesi, come posso dire, sul mercato in piena concorrenza, abbiamo investito milioni di euro in formazione, sia per quanto riguarda i prodotti finanziari che per quanto riguarda i prodotti previdenziali, e quindi sicuramente abbiamo nel tempo colmato il gap che evidentemente non poteva che esserci con i nostri competitor. Dopodiché l'input che parte da Poste nei confronti della consulenza, e adesso spiego perché, e non vendita come cita l'ascoltatrice, è stata sicuramente qualificato. Faccio semplicemente un esempio: da noi non sono stati venduti le obbligazioni Cirio piuttosto che Parmalat piuttosto che Argentina, cosa che evidentemente invece i promotori finanziari, che almeno teoricamente dovrebbero essere considerati maggiormente qualificati, hanno fatto, a differenza di Poste. Vabbè, su Lehman Brothers purtroppo ci siete incappati, però so che poi le cose sono andate anche abbastanza bene, guardi, perché avete risarcito tutti, lo so, guardi, benissimo, però poi alla fine, tentazione di sofisticare un po' ce l'avete avuta anche voi. Sì, ma sofisticazione fino a un certo punto, se mi consente, nel senso che abbiamo sofisticato per esempio anche i buoni postali fruttiferi, però mi lasci dire quello che diceva giustamente il dottor Picciolini, la caratteristica dei buoni postali, volendo fare una comparazione per esempio con i titoli Stato, obiettivamente, facendo una comparazione nominale, i tassi di interesse dei buoni sono inferiori rispetto a quelli dei titoli Stato, sì, ma nominalmente, se poi andiamo a vedere che per un titolo di Stato si pagano spese di sottoscrizione piuttosto che di gestione, mi riferisco al deposito titoli, e si paga l'imposta di bollo del deposito titoli, si paga il costo del deposito titoli, alla resa dei conti, se uno si fa i conti in tasca, non è poi così più conveniente comprare un titolo di Stato rispetto a un bono. Ma aggiungo, in uno scenario di mercati quale quello attuale, in cui tutti quanti diciamo che i tassi di interesse sono in salita, esatto, non diciamo compra, se lo sono, chi compra un buono che ha l'opzione implicita di rimborso sempre almeno alla pari, e cioè chi compra un buono può uscire sempre ritirando almeno il capitale investito, ha una grande opportunità in uno scenario di tassi in salita. Perché se salgono i tassi, il cliente che ha comprato la serie di febbraio la vende, non ci rimette una lira, compra la serie. Non c'è neanche la decurtazione dell'inflazione, dottor Di Luzio? L'inflazione evidentemente sì, ma quello incide anche sui titoli di Stato, l'eventuale decurtamento del potere di acquisto. Ma sempre ragionando in termini nominali, se io investo 100, esco almeno a 100 e vado ad acquistare la serie immediatamente precedente, se è una serie evidentemente migliorativa. Mentre se posseggo un titolo, qualunque esso sia, non solo i titoli di Stato, un titolo a tasso fisso, emesso dallo Stato italiano, ovvero emesso da un emittente corporate, purtroppo essendo titoli quotati, quindi essendoci un rapporto che il prezzo è condizionato dalle condizioni di mercato, oggi per esempio questi titoli hanno perso in conto capitale in maniera molto significativa. Ho un dato: da settembre 2010 a marzo 2011 i tassi di mercato sono aumentati del 57% e i titoli di Stato, sempre a 7 anni, sono scesi in conto capitale del 7%. Questo sui buoni postali non potrà avvenire mai. Allora, ci fermiamo adesso, poi le faccio anche altre domande. C'è un ascoltatore da Sanremo che ci scrive che difficilmente allo sportello con le persone, difficilmente si parla con le persone allo sportello. Io ho sempre parlato con consulenti o direttori molto capaci, la mia situazione è sempre stata valutata attentamente. Io non cita le poste, credo che Gianni appunto si riferisca anche alla consulenza fatta presso l'ufficio postale, mentre Paolo da Belluno dice: perché non dite che BancoPosta è il maggior venditore di strutturati che allo sportello vengono venduti alla stregua dei buoni fruttiferi? Ecco, anche questo è un aspetto che mi piacerebbe molto affrontare col dottor Di Luzio, e poi vorrei anche capire un po' proprio l'ultimo tipo di offerta che dal fronte dei buoni fruttiferi postali si ha, questo prodotto indicizzato all'Eurostox 50, come funziona appunto e come si fa anche a calcolare il potenziale rendimento di uno strumento di questo tipo. Poi abbiamo Giovanni e Claudio in attesa di porre le loro domande tra pochissimo. Allora, andiamo alla domanda di Giovanni da Sesto Fiorentino, che ci aspetta da tantissimo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. È rapidissimo, se ce la fa, così diamo spazio a tante altre persone. Ecco, cioè, spero di essere chiaro. Un buono fruttifero emesso nel 1986, cointestata a marito e moglie che ora sono decedute, sì, possono arrivare alla naturale scadenza del 30° anno? Questa è la domanda. Grazie Giovanni, molto chiara la domanda di Giovanni. Dottor Di Luzio. Beh, un buono postale di questo tipo, cointestato, da quello che ho capito, esclusivamente a due persone che sono purtroppo decedute. Esatto, non si può insinuare nessuno potenziale eredi in questo investimento? Allora, ovviamente deve essere no, perché diciamo le caratteristiche del buono, che se avessero anche la trasferibilità, le puoi immaginare i titoli emessi tanti anni fa che rendevano il 15%, se ci fosse stata, come posso dire, la tradizio familiare, non sarebbero mai venuti a scadenza. Allora, in questo caso bisogna aprire la successione, quindi qualificare chi sono, laddove ci fosse una successione testamentaria, qualificare chi sono gli eredi testamentari, ovvero se non ci fosse il testamento si va per successione legittima e si va a rimborso. Perfetto, per cui non è che vanno persi questi soldi e si ritiene le poste. C'è la possibilità appunto di... No, il titolo viene estinto, laddove però gli eredi sono tutti d'accordo, possono portare il titolo a scadenza. A scadenza e a ottenere ovviamente il denaro maturato. Ottenere, diciamo, tutta la promessa di interessi fatta da quel buono fino a scadenza, se tutti gli eredi però fossero d'accordo. Andiamo a Maurizio da Milano, invece ritorniamo sul tema della consulenza fatta all'ufficio postale. Maurizio, un direttore di un ufficio postale di qua vicino? No, beh, non è il caso, insomma, ecco, di dire questo. Io volevo semplicemente... Non è mica una parolaccia, cioè le avevo chiesto se era di Milano, no. di che posto. La cosa importante è questa, io volevo semplicemente dare un contributo dicendo che in realtà noi è esattamente il contrario rispetto all'ascoltatrice che aveva chiamato prima da Napoli, perché noi già è più di un anno che siamo entrati nel regime di consulenza dopo la direttiva MIFID e noi quindi ci adeguiamo assolutamente a quelle che sono le normative europee per la profilatura dei clienti, per sottoporre il questionario di adeguata verifica, e peraltro aggiungo che tutti i nostri prodotti non possono essere venduti a sportello se non si è prima passati per la consulenza, quindi oltre a essere un fatto normativo e professionale, è proprio un fatto tecnico, cioè la macchina non ci fa andare avanti se non abbiamo precedentemente profilato il cliente e non abbiamo adeguatamente offerto i nostri servizi. Maurizio, la ringrazio per la sua testimonianza, mi racconta un po' cosa succede nel suo ufficio, quali sono i prodotti di risparmio che la clientela le chiede di più? No, io ecco, diciamo, nel dettaglio non posso entrare. No, vabbè, ma non le chiedo, mamma mia, stamattina come è preciso, non le chiedo mica nome e cognome, così una statistica, no, un dato. Posso semplicemente dire che l'offerta dei nostri prodotti, che è sicuramente molto ampia, e abbiamo certamente una base di risparmio postale che dà quelle garanzie assolute di rimborso del capitale in qualsiasi momento, anche un'ora dopo che una persona abbia sottoscritto un prodotto che altri istituti certamente non possono offrire. Quindi la gamma è abbastanza ampia, riusciamo a diversificare ampiamente i portafogli dei nostri clienti, ripeto, con un'offerta che spazia sicuramente anche verso prodotti più complicati, ma ripeto, ha sempre come base un discorso anche di risparmio postale che entra nei portafogli dei nostri clienti e dà una garanzia assoluta che va bene. Grazie Maurizio. Da Maurizio all'altro di Luzzi, insomma, abbiamo trovato un bello sponsor, ovviamente è un vostro uomo, non poteva che dire diversamente, però ci ha raccontato un po' anche all'interno dell'ufficio postale che cosa succede quando è il momento di fare consulenza. Posso confermare e anche rafforzare le precisazioni del collega. Tanto per dirle, noi siamo partiti, come diceva il collega, con la siamo arrivati per ultimi, ma forse come ultimi li abbiamo fatta veramente bene la consulenza. Le dico subito che ciascuno sportello ha proprio una procedura, un algoritmo bloccante, nel senso, una volta che il nostro cliente è stato profilato e quindi ha risposto alle domande che servono per capire esattamente che cliente è e che orizzonte o temporale o profilo di rischio può assorbire, dopodiché fa tutta la macchina. E quindi laddove il cliente venisse a chiederci il prodotto A e quel prodotto in base all'algoritmo non è adeguato, non è idoneo, quel cliente, non si può andare avanti, cioè l'operatore dello sportello deve proporre qualcos'altro che sia effettivamente adeguato. No, allora insomma abbiamo ascoltato volentieri questa testimonianza di questo ascoltatore che tra l'altro ci voleva raccontare anche ben poco, in modo tale che se da qualche altra parte succedesse qualcosa di diverso avete sentito qual è il, come dire, teoricamente il miglior modello possibile di comportamento da parte di un consulente all'ufficio postale. Allora io non riesco purtroppo a sentire Claudio dalla provincia di Milano perché adesso abbiamo la nostra rubrica che non è di risparmio postale ma è di risparmio gestito, perché come sapete è sempre attivo il nostro servizio di segreteria telefonica di Salvadanaio in collaborazione con Assogestioni e il Salone di Risparmio che si svolgerà a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile. Voi state continuando a chiamarci all'828 1212, ci sono molte domande che ci state facendo sul tema del risparmio gestito. Ecco le nostre risposte e sentiamo la pillola che abbiamo scelto oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano le domande del risparmio. Salve, il mio consulente mi ha proposto di investire parte dei miei risparmi in fondi immobiliari, ma di che cosa si tratta esattamente? I fondi immobiliari introdotti in Italia nel 1994 si caratterizzano per il fatto di investire il proprio patrimonio, del tutto o in parte, sul mercato immobiliare attraverso l'acquisto di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Sono previste tre tipologie di prodotti: fondi ordinari, fondi ad apporto e fondi misti, a seconda delle modalità di sottoscrizione delle quote e di conferimento dei beni immobili di proprietà all'interno del patrimonio del fondo. Negli ultimi anni i fondi real estate hanno registrato una crescita notevole delle masse in gestione, a conferma del grande interesse che nel nostro paese riscuote da sempre questa tipologia di investimento. Come spesso capita a Salvadanaio mi pongo sempre dei grandi obiettivi che poi puntualmente vengono invece deviati dai nostri ascoltatori. Oggi volevo fare così un po' di vademecum sui buoni fruttiferi, i libretti di risparmio, invece abbiamo parlato della consulenza, lo sportello postale, dottor Di Luzio. Vabbè, è andata bene lo stesso, spero che insomma di aver chiarito molti dubbi da parte dei nostri ascoltatori. La ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. A tutti voi altrettanto. La richiameremo presto allora per gli altri argomenti. Io saluto anche il simpatico promotore finanziario di Banca Fideuro, ma visto che si firma lo dico, che vi invita a continuare invece a vendere i francobolli, dottor Di Luzio. Grazie a tutti per essere stati con noi. Da Deborah Rosciani, a lunedì.